bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Buona domenica e benvenuti alla tavola della bufala in tavola. Attenzione, oggi l'invito vale per due. Uno è per noi, quindi prendiamo posto. L'altro è per il nostro amico. Ognuno di noi ne ha uno e questa è già una notizia straordinaria. Un amico che non si vede, ad occhio nudo naturalmente, ma c'è. E c'è da sempre. Pensate, da quando siamo nati, un amico con cui viviamo proprio in simbiosi, che cresce, cambia con noi, è unico, irripetibile, fondamentale. Insomma, se non ci fosse, come si dice, bisognerebbe inventarlo. Per fortuna c'è, ci ha pensato madre natura e quindi a noi spetta il compito di trattarlo bene, di coltivare, come si dice, con lui una buona relazione. Perché? Perché se lui sta bene, noi ci guadagniamo. Sì, ci guadagniamo intanto in salute, ma anche in buon umore, in energia e anche in forma fisica. Volendo, e qua vi lancio una proposta, naturalmente se volete accogliere i nostri social vi attendono, potremmo dargli anche un nomignolo affettuoso, considerato il grado di intimità che ci lega a lui. Ma possiamo pensarci con calma, perché lui un nome ufficiale ce l'ha già, si chiama Microbiota ed è lui il nostro ospite d'onore. E a lui che abbiamo riservato il posto speciale, l'abbiamo fatto sedere a capotavola e oggi, amiche e amici all'ascolto, noi lo festeggeremo. Quindi, amici, che la festa cominci, andiamo! È qui la festa! Yeah! È qui la festa! La festa è proprio qui e oggi, per festeggiare il nostro amico invisibile, ho invitato qui in studio la dottoressa Silvia Di Maio, che è dottoressa in biologia applicata alle scienze delle nutrizioni. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Giovanissima, che insieme a Federico Mereta, che è un collega, un giornalista scientifico, ha dedicato al nostro microbiota un libro molto bello. Non potete sbagliare, il titolo è molto semplice, arriva Microbiota, sottotitolo L'amico invisibile per il tuo benessere a tutti. L'età, Gribaudo editore. Dottoressa Di Maio, un libro scritto a quattro mani che raccoglie però le risposte di sette grandi esperti. Esattamente. Il microbiota è, per farlo una sorta di carta d'identità, un organo vero e proprio, ma sì, a differenza degli organi che siamo abituati a vedere disegnati anche sui libri di anatomia, sì, è un organo che è difficile da rappresentare. Quindi per questo noi l'abbiamo chiamato invisibile, perché è anche difficile da, vero? Da riprodurre. Esattamente. Però c'è. Però c'è, e ci sono anche dei tratti che possono effettivamente aiutarci a descriverlo e ad immaginarlo. Innanzitutto ha una sua massa, pesa quasi 800 grammi, il che vuol dire che pesa quasi quanto il cuore. Hai capito. Esiste. Detto ciò, è anche un organo che è fatto da cellule come tutti gli altri organi del nostro corpo. Le cellule di questo organo sono però anche molto diverse tra loro, sì, in quanto abbiamo sia cellule batteriche che funghi, ma abbiamo anche dei virus, per esempio. Quindi potremmo quasi definirlo un organo un po' arlecchino, a differenza degli altri. Vedi? Molto interessante. Ne parleremo naturalmente, ma noi oggi abbiamo una ragione in più per festeggiare. Io festeggio alla grande perché è tornato a trovarci un grande esperto che al microbiota ha dedicato anni e anni di ricerca. In linea con noi il professor Antonio Gasbarrini, ordinario di medicina interna all'Università Cattolica di Roma. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi. È un onore per me, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Mi fa un po' arrossire, chissà che cosa dice il mio microbiota, ma se il microbiota fosse una persona, professor Gasbarrini, sarebbe un VIP nel significato vero del termine. Indubbiamente è importante perché arrivano sempre nuove conferme dalla ricerca. Diciamo che il nostro amico professore in questi ultimi anni è sulla cresta dell'onda e lo studio, le conoscenze su questo organo particolare, un organo arlecchino che c'è ma non c'è, invisibile, come l'ha descritto la dottoressa Di Maio, sono destinate a rivoluzionare i concetti di salute e di malattia. Ma questo è straordinario, professor Gasbarrini, ci vuole spiegare? Beh, il vero motivo è perché il microbiota, che è un organo che colonizza il bambino nel momento della nascita, sì, è un vero e proprio organo invisibile che in qualche modo colonizza tutto il nostro apparato digerente, però va anche a livello genitourinario, anche a livello dell'apparato respiratorio, anche nella bocca. Chiaro, nell'apparato digerente va ed è dominante proprio perché da lì arriva il cibo, arriva l'acqua, è un organo meraviglioso questo come serbatoio. Però la cosa stranissima è che l'apparato digerente ha una caratteristica. nella parte centrale, cioè quella colonizzata da questi batteri, miceti e virus, è un organo che ha delle caratteristiche molto ostili, cioè innanzitutto è buio, completamente nero, quindi sono batteri, miceti che crescono nel buio più totale e soprattutto al centro non c'è ossigeno, quindi in qualche modo è un organo che si è dovuto adattare a un ambiente ostile, però ricchissimo di alimenti. Il nostro organismo non è che è stato fermo, perché potenzialmente sono batteri e virus anche aggressivi, ha cominciato in qualche modo a utilizzarne i punti di forza. E quali sono i punti di forza? Innanzitutto la capacità di metabolizzare quello che mangiamo. Calcolate che questo microbiota produce vitamine, produce delle sostanze importantissime, produce acidi grassi a catena breve. È una specie di laboratorio, quindi. È un laboratorio, ma questa è una parte, non è un caso, poi ne parleremo, entra così tanto nell'obesità, nella magrezza, nell'anoressia, nel diabete, però c'è un'altra funzione fondamentale, è un organo che educa l'immunità. Senza questo organo noi non avremmo un sistema immunitario, quindi in qualche modo è un organo che può essere pericoloso se non controllato, ma che noi scegliamo accuratamente, è in qualche modo condizionato da quello che noi mangiamo, ma senza esso la vita dell'uomo non sarebbe possibile. Voi vi sarete domandati perché ho invitato a tavola un amico invisibile? Bene, il professor Gasbarrini ci ha dato una e più ragioni per sottolineare l'importanza del nostro microbiota. Obiettivo della nostra chiacchierata domenicale? Conoscere i suoi gusti, trattarlo bene, assecondarlo, fare fiorire in lui la salute, quindi l'equilibrio. Se sta bene lui, stiamo bene noi, stiamo bene tutti insieme. Alla tavola della bufala in tavola, insieme al professor Gasbarrini e alla dottoressa Di Maio, noi ci fermiamo, ma ritorniamo. Ritorniamo con il nostro amico invisibile. A tra poco. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14.30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. La bufala in tavola. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma vie n'était qu'ennui. J'ai resté dans l'existence sans connaître les trans de l'amour, du bel amour qui vous fait tour. Microbiota mon amour è una sorta di super organo fondamentale, perché ha un ruolo chiave nel mantenimento di buone condizioni di salute e anche di prevenzione di tante malattie, dall'obesità al diabete. Noi l'abbiamo invitato alla tavola della bufala in tavola. Stiamo parlando di lui, di questo amico invisibile, insieme al professor Gasbarrini, ordinario di medicina interna all'Università Cattolica di Roma, e insieme alla dottoressa Silvia Di Maio, che insieme a Federico Mereta al microbiota ha dedicato un libro molto interessante appena uscito, fresco di stampa. Professor Gasbarrini, io ho detto, considerando tutte le cose che fa, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Per fortuna ci ha pensato Madre Natura, ne ha dato uno diverso a ciascuno di noi. Ma professore, che cosa dice la ricerca? Ma la ricerca dice di tutto, calcolate che la quantità di lavori che escono è impressionante, ogni giorno decine e decine. Sicuramente i più importanti sono i lavori che hanno dimostrato come col trapianto di microbiota si possono curare alcune malattie, cioè un microbiota sano in una persona con una malattia e può essere sicuramente anche curata quella malattia, ma addirittura si può trasmettere la malattia. E questi modelli di trapianto hanno dimostrato che è un organo con delle caratteristiche importantissime e che va a assolutamente tutelato, e non c'è dubbio che il modo migliore in assoluto per tutelarlo e controllarlo è quello che noi mangiamo. E infatti, dottoressa Di Maio, nel libro scrivete che, come nei social media, anche il microbiota, pur senza smartphone e PC, poi là è tutto buio, ha detto il professor Gasbarrini, ha degli elementi che in qualche modo guidano la sua composizione. Uno di questi è proprio l'alimentazione. Assolutamente sì. L'alimentazione è forse il meccanismo che noi possiamo più controllare per poter aiutare il nostro microbiota a stare bene. Il microbiota è in qualche modo, ha qualche maniera di protagonismo, d'altronde abbiamo visto che è coinvolto nella maggior parte delle condizioni che possono favorire il nostro benessere psicofisico. Quindi giustamente dobbiamo trattarlo al meglio, aiutarlo a stare in equilibrio, in modo da trattarlo così bene da non renderlo permaloso e farci a sua volta aiutare. Perché è un po' permalosetto. È un po' permalosetto, potrebbe effettivamente anche... sicuramente non rivoltarci contro, ma non favorire il nostro benessere, però non porta rancore. Quindi se noi decidiamo poi di trattarlo bene, decide di riaiutarci. È pieno di qualità, professor Gasbarrini, questo microbiota? Assolutamente, ci protegge da tutti i grandi patogeni, batteri cattivi, in qualche modo metabolizza quello che noi mangiamo, educa e fa sì che l'immunità funzioni nel modo giusto. E calcolate che ora si studia a ogni livello, abbiamo detto il diabete, ma calcolate che c'è tantissimo sulla prevenzione dei tumori, quindi o sulla prevenzione delle malattie autoimmuni, quindi è veramente un organo miracoloso e in qualche modo piano piano stiamo scoprendo le sue grandi qualità. Ma un ruolo anche nella regolazione del peso, mi scusi se le faccio questa domanda, ma ogni volta che ci sediamo a tavola, sa, un pochino ci pensiamo, il microbiota può aiutarci, può dire la sua? Assolutamente sì, esiste proprio un asse tra il microbiota intestinale, il pancreas, il fegato e il cervello, che dice quante, che in qualche modo può decidere quante calorie assorbire. Calcolate che il microbiota, insieme ad altre parti del nostro organismo, è in grado di decidere quante calorie assorbire di un pasto. Quindi quando noi leggiamo su una barretta che ha 400-500 calorie, il microbiota è uno tra gli attori che decide se assorbirne il 100% o il 50%, capite l'importanza? Assolutamente. Professor Gasbarrini, possiamo paragonarlo a una sorta di impronta digitale. Questo amico invisibile è diverso per ogni persona. Il mio è diverso dal suo, da quello della dottoressa Di Maio. Assolutamente sì, è chiaro che dobbiamo partire da un presupposto che casomai all'inizio è un po' difficile da essere compreso, ma poi se uno si ragiona è facile. Questo microbiota colonizza il bambino nei primi 3, 4, 5 anni di vita, quello è un momento cruciale, perché il bambino alla nascita praticamente non ha batteri nell'apparato digerente, li prende dall'esterno, una parte li prende dal canale vaginale della madre, questo è uno dei motivi per cui è così importante il parto naturale, un'altra parte li prende durante l'allattamento, delle molecole contenute nel latte della mamma educano e fanno crescere alcuni batteri. Però attenzione, il cervello del bambino nei primi 2, 3, 4 anni di vita continua a scegliere batteri, miceti e virus e sceglie quelli che sono più opportuni per lui. Perché? Perché noi nasciamo col genoma di papà e mamma, no? Ci danno 30, 40, 50 mila geni. Per vivere ne servono 500 mila di geni, molti di più di quelli che ci danno papà e mamma. Quei geni sono veicolati da queste comunità batteriche sulla base di quello che sta succedendo a un bambino. Quindi capite bene che, dato che ognuno di noi ha avuto modalità diverse di parte, cresciuto in contesti diversi, in famiglie diverse, ricchezza, povertà, litigio dei genitori, pericolo, sicurezza, ozio, essere viziati o meno, tutte queste condizioni fanno strutturare il nostro microbiota. Quindi tra il quinto, sesto, settimo anno di vita abbiamo il nostro microbiota, che in qualche modo è il nostro identikit. È anche intelligente, ma insomma, se fosse una persona bisognerebbe sposarla. Professor Gasbarrini, i primi 3 anni di vita sono fondamentali, ma c'è anche un'altra età, un momento della vita in cui il nostro microbiota si trasforma. Sono due i momenti importantissimi, come abbiamo detto i primi 5, 6, 7 anni di vita, no? Sono in qualche modo il momento in cui il bambino deve adattarsi all'esterno, non è un caso che il microbiota da alcuni viene chiamato adattoma, esposoma o interattoma, perché si interagisce con l'esterno, e poi c'è un altro momento cruciale che è quello dell'invecchiamento, diciamo dai 65, 70 anni in poi, quante persone hanno altre malattie, no? Pensiamo certo. A uno che soffre di gastrite cronica, uno che ha i diverticoli, anche malattie non gravi, no? O malattie che spesso accompagnano gli anziani, l'ipertensione, colesterolo, un po' di diabete, tutte queste condizioni unite ai tanti farmaci che uno prende dai 65-70 anni poi fanno cambiare il microbiota, quindi due momenti cruciali fino ai 10 anni e dai 60 anni in poi in cui bisogna essere più attenti e quindi mangiare cose a volte diverse. Allora, ci aiutate a capire quali sono le attenzioni, le precauzioni per mantenere il nostro microbiota in equilibrio, un microbiota sano e felice, in base alle diverse fasce d'età, dai bambini, adolescenti, adulti e anziani? Allora, partiamo un attimo da un primo presupposto. Il microbiota adora le fibre, d'accordo? Quindi a ogni età, chiaramente è più difficile, a un bambino piccolino non certo non possiamo ancora pretendere che cominci a mangiare della verdura, della cicoria, dei broccoli. Quindi diciamo, compatibilmente col fatto che i primi anni di vita fondamentalmente bisogna, a, se possibile, avere un parto naturale, cioè un parto vaginale, perché è la prima via di colonizzazione del microbiota, b, se possibile, bisogna essere allattati dalla mamma, questo se possibile, chiaramente. Ok, questi sono questo i due consigli per il microbiota giovane dei bambini esattamente piccoli. Poi da quando il bambino comincia a svezzarsi bisogna fin da subito abituare il bambino e quindi in qualche modo educare il microbiota a prendere quelle sostanze che poi sono fondamentali in tutta la vita, le piramidi, no? Quando parliamo della piramide alimentare, alla base della piramide alimentare ci sono le fibre, quindi bisogna assolutamente abituare i bambini e per quanto possibile anche gli anziani devono continuare a mangiare molte fibre, d'accordo? Quindi ogni forma di verdura, ogni forma di legume è importantissimo e se possibile, qui è un altro concetto che dobbiamo capire, il nostro microbiota abbiamo detto che è fatto da batteri, miceti e virus buoni, ognuno di loro mangia cose diverse, quindi se possibile, ad esempio pensando alle verdure, alternare moltissimo, cioè diciamo non prendere sempre stesso tipo di verdura, possiamo prendere i fagiolini e poi un'altra volta i piselli e la cicoria, i broccoli, i carciofi e il pomodoro, perché ognuno dei batteri dell'apparato digerente usa delle fibre diverse e partiamo da un presupposto: più il nostro microbiota è vario e variegato, meglio è per l'organismo. Per fare una è difficile comprendere, posso fare una metafora, pensiamo a una grande città, una grande città funziona bene se noi abbiamo poliziotti, insegnanti, medici, persone che puliscono le strade, ingegneri aerospaziali, bravi politici, ecco, il microbiota è così, dobbiamo avere tutte le famiglie batteriche possibili, perché ci deve aiutare, ci deve proteggere da ogni tipo di condizione, quindi mangiare sempre le stesse cose, quelli che sono molto monotoni, no? Ecco, io mangio sempre riso e petto di pollo, è un errore. Mamma mia, che tristezza, al nostro microbiota non piace la solita minestra. Dottoressa Di Maio, che cosa gli piace d'altro al nostro microbiota? Abbiamo detto le fibre, quindi di frutta e verdura, la varietà. Esistono anche i polifenoli che sempre vengono accomunati alle fibre con un unico grande nome che è quello dei prebiotici. E parlando di prebiotici, che è un termine forse un po' tecnico, ci vengono in mente anche i probiotici, che quindi sono dei microrganismi vivi che se somministrati in quantità adeguate possono portare beneficio alla nostra salute andando a favorire l'equilibrio del microbiota. Certo. Professor Gasbarrini, le faccio una domandina, siamo un po' tutti influenzati, anche il nostro microbiota ha l'influenza, come lo tiriamo su? Diciamo che esistono batteri che sono molto molto bravi ad educare il sistema immunitario e altri che producono dei veri e propri antibiotici in grado di uccidere i patogeni, non meravigliamoci di questo, calcolate che noi conosciamo la penicillina che viene prodotta da un fungo che si chiama Penicillium notatum che per proteggersi da batteri cattivi produce questo antibiotico e qui dentro nel nostro apparato digerente produciamo in continuazione antibiotici che servono a mandare via i cattivi, d'accordo, che possono essere batteri molto aggressivi che spesso noi mangiamo con l'alimentazione. Per far crescere i batteri buoni, pertanto, oltre alle fibre che abbiamo detto, possiamo usare dei trucchi. Calcolate che ad esempio c'è un batterio buonissimo che si chiama Ackermansia mucinifila, nomi strani, dal nome non sembrerebbe, però se lei mi dice che è buono ci credo. Ma ci sono dei nomi, Fecalibacterium prausnitzii, no? Pensate che nomi strani, ma anche noi medici non li avevamo mai sentiti questi batteri. In base base a quello che mangiamo, pensiamo il ribes, i frutti rossi hanno delle straordinarie caratteristiche, sono adorati da alcuni di questi batteri. Quindi ad esempio i frutti di bosco hanno tantissime caratteristiche positive, ci sono altri batteri che utilizzano ad esempio, non lo so, le noci. Quando noi mangiamo le noci, al di là di che sono molto ricche in omega 3, vengono utilizzati da altri batteri che poi producono altre sostanze o producono ad esempio delle vitamine del gruppo B. Ecco, questi batteri, se noi mangiamo le cose corrette e se abbiamo una ricca idratazione, l'acqua ovviamente è importante, e se evitiamo di fargli male, calcolate che spesso queste cose le diamo per scontate, ma quando noi eccediamo con gli alcolici danneggiamo la barriera intestinale e danneggiamo i batteri. Calcolate che nella nostra bocca ci sono tantissimi batteri e alcuni di questi batteri sono quelli che danno le carie, altri sono quelli che ci proteggono dalle carie. Quindi veramente noi stiamo scoprendo cose incredibili e non c'è dubbio che l'alimentazione corretta, varia, variegata, fatta di sostanze sane, con l'uso minimo indispensabile di prodotti chimici che vanno a rimodulare il microbiota, possono veramente proteggerci dalle malattie e in qualche modo prevenire anche le malattie infettive invernali. E allora, adesso che sappiamo tutto, quasi tutto di lui, direi vita e miracoli, adesso vogliamo preparargli qualche cosa di buono? A tra poco per il menù del microbiota. La bufala in tavola. Microbiota è il nostro ospite d'onore di questa puntata, è lì seduta a capotavola, dottoressa Di Maio. Noi non lo vediamo, ma c'è. C'è. Sappiamo ormai tutto di lui, ci ha raccontato del nostro, ce l'ha raccontato il professor Antonio Gasbarrini, che è, non lo vediamo ma c'è, anche, c'è lui, anche lui, che è in linea, ordinario di medicina interna all'Università Cattolica. E allora, per preparare al microbiota qualche cosa di buono, io ho chiamato Federico Mereta, che ha firmato il libro Microbiota insieme alla dottoressa Di Maio, è un collega giornalista scientifico, collabora anche con Il Sole. Federico, ciao! Ciao a te e buon microbiota a tutti. Ecco, vedi che c'è voluto il microbiota per averti in trasmissione. Io direi che un po' di focaccia al nostro microbiota non può che fare bene. E ne parlo... visto il punto di partenza, che si sentirà sicuramente dal mio accento, direi che la focaccia non può mancare, anche se forse per il nostro microbiota bisogna pensare a qualcosa di più specifico, che oltre che dare piacere al nostro palato, di anche piacere ai batteri che abitano nel nostro intestino e che sono buoni. E infatti voi ci avete pensato, perché nel libro c'è proprio un menù per una pancia felice. Esatto, il menù per la pancia felice, che fondamentalmente riprende un po' quelli che sono i canoni di un'alimentazione varia, perché guardate, il nostro microbiota poi mangia di tutto. È vero che ci sono delle cose che gradisce molto di più, o che almeno gradiscono i batteri buoni, quelli che ci fanno stare meglio. Senti, io leggo, e anche il professor Gasbarrini lo sa, che ci sono delle ricettine squisite. Ad esempio, ce ne sono, me ne vuoi raccontare una? Ad esempio, io ho letto insalata di radicchio e cipollotto nel microbiota, ribollite microbiota, la zuppa di legumi, la pasta con le sarde. Esatto. Sì. Cosa gli facciamo allora oggi, che è domenica, Fede? Allora, la cosa bella di oggi, visto che partiamo con questa cosa, io farei un entrée, per così dire, proprio con l'insalata di radicchio, cipollotto e microbiota, che è molto semplice. Se ci vogliono un po' di semi di zucca e di lino, che sono molto importanti e sono molto piacevoli, tra virgolette, anche per i nostri batteri. Sì. E perché è importante questo tipo di insalata? Perché? Perché ci dà polifenoli, polifenoli di cui i batteri sono ghiotti, molto golosi, esatto. E poi c'è anche l'inulina. L'inulina è una delle sostanze probiotiche maggiormente studiate in letteratura, quindi anche il microbiota, non dico che abbia studiato, ma quantomeno esatto, si diletta a capire che cosa gli fa bene. Quindi per partire, un'insalatina di questo tipo. Poi? E poi si può scegliere. Quelle che riportiamo nel libro sono sicuramente ricette alla portata di tutti. tutti. A me piace molto, ma perché sono un goloso di cavoli, forse è il mio microbiota che mi guida, tutte le crocifere. Professor Gasbarrini, il microbiota di Federico Meretta suggerisce anche gli alimenti che deve mangiare, i prodotti, i piatti, le ricette. Ma è così. Abbiamo dei batteri che sono in grado di condizionarci nel comportamento alimentare, quindi ci fanno scegliere alcuni alimenti. Alcuni, ad esempio, adorano gli alimenti ricchi di grassi, ci fanno mangiare il cioccolato. Allora, Fede, quindi puoi lasciarti guidare dal tuo microbiota e suggerirci quindi? Benissimo, allora io che amo molto, come dicevo, legumi e cavoli, partirei con la ribollita toscana, perché oltre che essere un vero e proprio spettacolo dal punto di vista sia del colore, che anche gli occhi vogliono la sua parte, sia per il fatto che possiede delle sostanze che al microbiota piacciono molto. Io ho fatto prima l'esempio di cavolo nero e verza, oltre che per le fibre, riduce anche la presenza, pensate, di batteri solforiduttori, quindi al di là dell'aspetto tecnico ci aiutano abbastanza per star bene. Poi ci sono i legumi che danno delle fibre particolari e il microbiota veramente ne è felice di questo. Poi ci mettiamo un po' di cipolla e aglio e, se permettete, deviazione anche verso il sud, il giusto peperoncino, perché bravo, ci vuole. Che aiuta sempre. Esatto, aiuta, ma poi anche per il microbiota si è scoperto che è una cosa che dà un po' di sprezzo anche a lui. Bene, il microbiota l'abbiamo sistemato, allora saluto gli ospiti di questa prima parte della Bufala in Tavola. Professor Gasbarrini, grazie, alla prossima. Grazie a lei, grazie a tutti. Dottoressa Di Maio, complimenti, e anche naturalmente alle altre due mani, quelle di Federico Meretta, autore del libro, insieme alla dottoressa Di Maio. Buona giornata e buona domenica. Saluto con questo brano il prossimo ospite, so che gli piace, ormai conosco i gusti del microbiota, ma conosco anche i gusti del professor Luca Piretta, gastroenterologo, docente di allergie e intolleranze alimentari al campus biomedico di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Apriamo lo spazio delle ricerche e ci infileremo come sempre anche qualche bufalina. Allora, partiamo da una ricerca bella, la dieta mediterranea, che si è classificata come migliore dieta al mondo davanti alla DASH e alla flexariana sulla base del Best Diet Ranking 2020, e quindi elaborato da un media statunitense molto importante. Siamo i primi, dico siamo perché la dieta mediterranea è nella nostra tradizione, nel nostro DNA. Professor Piretta. Beh, diciamo che dovremmo essere, perché poi anche noi purtroppo negli ultimi decenni ci siamo allontanati dai pattern della dieta mediterranea, quindi noi stiamo lottando per ritornare a fare quello che era la nostra dieta più congeniale. Questo riconoscimento non fa altro che confermare quello che tutta la letteratura scientifica dice da anni e da anni. E ricordiamo che la dieta mediterranea è patrimonio immateriale dell'UNESCO e non fa altro che concordare sui dati che ci dicono che chi segue la dieta mediterranea, e quanto più si avvicina al modello di vita mediterraneo, più riduce il rischio di malattie cardiovascolari, malattie tumorali e malattie degenerative. Quindi non è un vezzo patriottico, ma si tratta di andare incontro a quello che la scienza ci dice se vogliamo cercare di rimanere in salute. E sappiamo, già lo diceva Veronesi, che l'80% dei tumori di cui la popolazione occidentale viene affetta è causata dall'alimentazione sbagliata. Allora, professor Piretta, passiamo dalla teoria alla pratica, traduciamola un po' come avete fatto col vostro almanacco, in un menu settimanale. Noi abbiamo 14 pasti, quindi 14 occasioni in cui possiamo giocarcela bene. Come allora, distribuisco? Abbiamo... Quante volte alla settimana il pesce, le verdure, frutta e verdura sempre, lo sappiamo. Allora, anche qua ci ispiriamo alla piramide alimentare. Noi dobbiamo mangiare non solo tutti i giorni, ma tutti i pasti, quindi almeno 4-5 volte al giorno ci deve essere o una frutta o una verdura. E questo non è un termine generico, allora mangio sempre le banane, perché io ho dei ragazzini, mi dicono, beh, al nostro posto io mangio sempre le banane. No, perché esistono i famosi 5 colori della frutta e della verdura che caratterizzano proprietà differenti secondo il tipo di frutta e verdura di cui parliamo: quella gialla e rossa ha più carotenoidi, quella bianca più magnesio, quella viola più antociani. Quindi bisogna andare a cercare di ruotare, e se noi, e sembra complicatissimo, ma come faccio 4 volte al giorno? Bene, basta pensare che le due pasti principali, mangiamo un contorno e già sono 2 porzioni di verdura. La frutta o a fine pasto e abbiamo già altre 2, ce ne manca una che può essere una spremuta al mattino o a metà pomeriggio. Quindi, come vedete, non è complicato. È un gioco da ragazzi, professor Piretta. È un gioco da ragazzi. Ora, sul discorso invece dei cereali, che anche loro devono essere presenti tutti i giorni, io suggerirei di fare uno dei due pasti principali della giornata a base di cereali, o riso o pasta o couscous o quello che uno preferisce, e nell'altro è un contorno ovviamente, e nell'altro fare un secondo piatto. Questo per una persona normale che non fa né un'attività fisica agonistica, perché ha bisogno di più ovviamente, né uno sedentario che forse ha bisogno un po' di meno, diciamo per una persona standard. Poi ci sono quegli alimenti che invece vanno consumati meno volte a settimana, non tutti i giorni. Sì. Per esempio il pesce viene consigliato 2 o 3 volte a settimana, le carni bianche anche loro 2 o 3 volte a settimana, le uova fino a 4 volte a settimana 2 uova, quindi possiamo un po'... Carne rossa? Dire. La carne rossa è che il quibus della situazione, viene consigliata dalla piramide alimentare 1 o 2 volte a settimana, quindi non viene abolita, viene consigliata 1 o 2 volte a settimana, perché in questa quantità, in questa proporzione, noi abbiamo i vantaggi, vale a dire proteine, alto valore biologico, zinco, selenio, ferro, vitamina B12, senza avere i rischi di una eccessivamente frequente consumo di carne rossa. Professor Piretta, però diciamola tutta, noi stiamo andando bene, direi benone. Uno studio internazionale guidato dall'Università del Kent, che è stato pubblicato su una rivista scientifica molto prestigiosa, si chiama Nature Food, ha sottolineato come dopo Spagna e Grecia, l'Italia, quindi noi, siamo il terzo paese dell'Europa occidentale che fa un maggior uso di verdura. Io che la conosco so già che cosa mi risponderà, quindi si può fare di più. Certo che si può fare di più, dobbiamo essere i primi, però al di là delle battute, guarda caso, sono paesi anche loro del bacino mediterraneo, quindi è chiaro che l'idea del modello mediterraneo è vincente, e che deve essere vincente soprattutto in quei paesi dove gli alimenti della dieta mediterranea sono, diciamo, più buoni, oltre che più salutari. Questo ci aiuta, ci dovrebbe aiutare di più. Siccome invece negli ultimi decenni abbiamo seguito più tendenze americane più che la nostra natura, quello che dobbiamo lottare, cercare di fare, chi lascia la strada, com'è quella cosa là, chi lascia la strada nuova per la vecchia per la nuova, non sa cosa lascia ma non sa cosa prova. Senta, io a proposito di nuovo, una nuova dieta che sta impazzando su internet si chiama CRAM, lei la conosce? Sì, mi fa impazzire, perché mi fa impazzire, perché io ancora ci casco nel fatto che qualcuno voglia proporre delle cose assurde per risolvere dei problemi. Allora CRAM cosa vuol dire? È un acronimo che indica i 4 alimenti base di questa dieta, che sono C per cereali, R per riso, A per mela in inglese, Apple, e M per milk, cioè latte. Cioè questi sono gli alimenti base, che non c'è niente di male, vanno benissimo, però calcoliamo che c'è solo la mela come frutta e verdura, già qui siamo carenti. Ma se pensiamo che questa dieta propone in 3 giorni di perdere peso, non viene specificato bene quanto, è ridicolo, perché non si può perdere peso in 3 giorni, non serve a niente perdere peso in 3 giorni, e lo vedo molto difficile facendo mangiare pasta, riso, perdere peso in 3 giorni, dipende dalle quantità, magari mangio un chicco di riso, sì, e basta, forse ho tanto peso, ma è assolutamente ridicolo. Va bene, mi raccomando allora, occhio alla dieta CRAM, no. Sì. Professor Piretta, torni presto a trovarci. Ma io con gioia vengo da te. Mamma mia, grazie. Io sono qua che l'aspetto a braccia aperte. Noi intanto facciamo una pausa. Grazie professore, buona domenica. Grazie. Rivera è stato un calciatore completo. Mazzola era essenzialmente un uomo gol. Dicevano che era lento, però secondo me non... era il suo modo di correre che lo faceva sembrare. Era un giocatore molto veloce. Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16:30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. La bufala in tavola. aggiungiamo un posto alla tavola della bufala in tavola ad un amico, ma che mi piace un sacco, lo seguite tutti, donne, uomini, ragazzi, ragazze, Luca Guidara, il coach dell'ordine. Eccomi, ciao qua, Luca. Ciao. Allora, tu hai invitato perché adesso che abbiamo cucinato, abbiamo sistemato il nostro microbiota, gli abbiamo dato da mangiare, adesso tocca mettere in ordine. Esatto, la cucina. Andiamo in cucina. Andiamo in cucina. Facile. Ecco, è un po' l'altro lato della medaglia. Ci piace cucinare e poi quando ci troviamo tutta la cucina da mettere a posto, allora uno dice ma perché non ho fatto un'insalata? Ho ordinato una pizza. Bravo. E invece no. E cerchiamo sempre di prenderci cura anche della cucina, perché credo sia il motore di ogni casa. È vero. Il cuore di che ogni casa. Che chiacchiere belle che si fanno in cucina, vero? Sì. Dove ci ritroviamo tutti, dove raccontiamo le nostre giornate. È vero. Io direi che, come suggerisci tu nel libro, io l'ho sbirciato. L'hai sbirciato? Sì, l'ho sbirciato, si intitola Home Sweet Home. Devo dire che l'ho letto perché Luca me l'ha fatto avere in anteprima. Esce però tra poco, praticamente è lì, siamo in sala parto. Sta uscendo martedì 28. Intanto noi diamo una piccola anticipazione perché io l'ho letto e ho sbirciato con un sacco di consigli. Nella cucina, perché tu passi in rassegna ogni stanza della casa. Esatto, è un racconto di stanza per stanza e con tanti consigli. Tanti consigli, ovvio. E come scrive Marco Bianchi nella prefazione, un'ossessione con il sorriso. Esatto. Ecco, e con la musica giusta. Con la musica giusta. Andiamo quindi in cucina, organizziamoci per evitare che dopo che abbiamo cucinato abbiamo la cucina che è sommersa da pentole e pentoline. Cosa fai tu? Cosa faccio? Allora, ogni volta che preparo qualcosa da mangiare, piano piano sistemo. Quindi mi serve il sale, lo uso, lo metto via. Mi serve la pentola, non mi serve più, la metto già sotto l'acqua, lavastoviglie. Quindi organizziamoci piano piano. Sì. Nel senso, cioè non facciamo arrivare la pila di piatti e poi ci dobbiamo trovare a sistemare tutto. Poco alla volta e vedrete che... Ecco, e seguiamo i tuoi consigli anche per la pulizia, la detersione e anche la manutenzione di alcuni attrezzi che normalmente usiamo quando prepariamo i nostri piatti. Uno tra questi, il tagliere. Il tagliere. Ecco, io lo adesso pulisco. Io parto, sono già partita con una volta con la filastrocca del tagliere che mi piace. Posso dirla di nuovo? Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio e tagliarlo è un grave sbaglio. Laura Vanossi, che in redazione tra poco mi viene a prendere, mi porta via, ma mi piace, l'ho imparato. Bella, da quando ero piccolina. Me la segno anche. Allora, taglieri. Quali usi tu? Di legno. Io per pulirli uso sale grosso e un limone. Così igienizziamo e con l'aiuto del sale grattiamo via. Poi una sciacquata sotto l'acqua, acqua tiepida, lo facciamo asciugare e lo mettiamo via. E lo fai regolarmente tutte le volte che lo usi? Dipende da cosa vado a tagliare. Fai un tagliere per le verdure, uno per la carne, cioè differenze tagliere. Differenzio, esatto. Senti, quali altri consigli puoi suggerire alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando, che si dilettano in cucina ma vogliono mantenere la cucina bella? Quelle cucine che sono belle vissute ma molto pulite. Ad esempio organizzare il frigorifero, secondo me. Che questo è un grande altro classico. Anche quello, puliamolo almeno una volta al mese. Sì. Acqua e aceto, un panno e gli diamo una passata. Organizziamo il frigo poi in maniera la verdura sotto. Certo. Verdura sotto nel famoso cassetto delle verdure. Tu ci metti uno stratino di carta o quei tappetini che vengono dei contenitori, esatto. Così magari anche, ad esempio, il kiwi, adesso che mi viene in mente, che ha tutta la peluria, mi cade lì dentro e un attimo poi. Senti, nel tuo libro per ogni stanza suggerisci una playlist. Dai, ormai abbiamo detto che esce. Sì, perché praticamente tu dici: se dobbiamo fare i lavori ci concentriamo, ci facciamo aiutare dalla musica che così ci dà il ritmo. Per ogni stanza ha la sua playlist. Adesso tu suggerisci le tue, ma ognuno si può creare le proprie. Certo. No? Però intanto io dico: se con Luca Guidara funzionano, perché non provarci? Poi magari creatività insegna che troviamo le nostre. Allora, la cucina. vi consiglio di creare una playlist appunto per ogni stanza che duri massimo mezz'ora. Mm. In quella mezz'ora lì ci dedichiamo alla pulizia di quella stanza. E noi anche, quindi, dopo che dobbiamo rimettere a posto la cucina, noi che cosa andiamo ad ascoltare? Qual è la tua playlist? Allora, io per la cucina l'ho vista già. È tutta all'italiana. Sì. Allora, io ho optato per Vivere a colori di Alessandro Amoroso, Incanto di Tiziano Ferro, Primavera in anticipo della Pausini, Voglio di Mengoni e La mia città di Emma Marrone. E con proprio... questo, pam! Sì. Vero? E la con pace dei sensi. E con questo si va. Sei la causa mia primaria, adesso in me, di tutto il buono che c'è. Lo so, sei la primavera in anticipo. Luca, tu sei un influencer ormai dai grandi numeri. Sì, dico, clean influencer. Clean influencer. Nel tuo profilo Instagram, sì, scrivi: nell'animo Marie Kondo, nel DNA un po' Diavolo Veste Prada. Spiegami un po' in che senso. Che bisogna essere come Marie Kondo, quindi belli organizzati, ma anche un po'... un po' al lancio della scarpa. Esatto. Senti, un però un mix. Ma quanto ti veramente ti aiuta e ti dà piacere l'occuparti della casa? Come sei riuscito a trasformare un'attività che, diciamolo, non sempre piacevole, non sempre dai, piacevole, in quasi una strategia del benessere? Metto la cera, tolgo la cera, metto la cera, tolgo la cera. È un allenamento. È un allenamento e tutti possiamo riuscire. Ma tu da bambino. Io da bambino. Ecco, adesso sei un ragazzo, ma sei stato bambino, sei stato adolescente, quindi immagino anche allora, tu, adolescenza, no? Anch'io ero disordinato, lo ammetto. Da bambino quello invece con mi la divertavo... scarpa da ginnastica che faceva svenire? No, quello no. Ah, non eri a questo punto, no, vabbè. No. Però mi sono salvato, no, quello no. Però magari la pila di panni sulla sedia, quello sì. Sì. Beh, invece da bambino mi divertivo già con lo straccetto a pulire la cameretta, sì, a aiutare la mamma, a far finta di stirare. Ho una foto di quando ero piccolo che ho pubblicato appunto sul mio canale Instagram, dove sono io con il ferro da stiro finto dove stiro. Cuore. Sì. A proposito, noi siamo in cucina, ma nel tuo libro suggerisci anche dei trucchetti per stirare in modo piacevole, quasi lo zen dello stiro. Sì, allora piccoli... Perché tanto poi la tovaglia della tavola della bufala in tavola toccherà stirarla, lavarla, certo, e stirarla. Allora, piccoli accorgimenti, quindi magari centrifughiamo meno, quindi sì, prevenzione. Sì, anche vedi? Nel... Ma quanto mi piace, prevenzione! Quindi magari centrifughiamo di meno, perché almeno i panni si sgualciscono meno. Stendiamoli bene, ecco, perché già da lì parte il tutto. Le magliette e le camicie appendiamole nella gruccia, così rimarranno già con la loro forma. Piccole cose che ci possono piccole aiutare. Piccole cose che risparmiano tempo, quindi mi raccomando, allora preparate, avete una settimana di tempo per lavare e stirare poi la tovaglia per la prossima puntata della Bufala in Tavola domenica. Luca, grazie per essere grazie stato mille con a noi. Te. Grazie. Grazie e grazie a voi, noi ci sentiamo come sempre domani alle 6:15 e poi a mezzogiorno per le notizie e poi per una nuova diretta Facebook. Buonissima giornata dalla vostra salutare ossessione quotidiana. Oggi ordinatissime, pulitissime.